Quanto vorrei che si fermi tutto in un minuto, che ogni persona che ha il potere resti muto, e che si lasci voce a chi non ha per niente, a chi viene schiacciato dalla sua realtà sempre. Così si spiega l'indifferenza da stratega di chi pensa ai suoi interessi e lascia gli altri nella merda. Spingi un ideale, lascia intatto il tuo tracciato, non lasciare che il tuo tempo venga incestinato. Non stare a guardare, dai voce al tuo presente, e fai che ogni parola arrivi dritta alla gente. Il tuo pensiero conta più dell'oro che nel braccio, la tua mente non si ruba, ma il tuo braccio può essere amputato. Io nelle strade vedo gli occhi della gente che esprimono incertezza nel futuro che ha davanti a sé. Sazi di tutti perché e di scoprire come uscirne da sotto, da giù con un nome. Cosa vorresti, cosa capisci di una nazione a culo in terra che sprofonda negli abissi, che non ci dà l'opportunità di aprirsi, di capirsi, di superare questi giorni tristi. Cosa vorresti da questo sole che non sorge? Cosa vorresti da questo mondo senza cuore? Cosa vorresti da te stesso e le persone, dall'amore, dalla vita, il vero senso alle parole? Cosa vorresti da questo sole che non sorge? Cosa vorresti da questo mondo senza cuore? Cosa vorresti da te stesso e le persone, dall'amore, dalla vita, il vero senso alle parole?